Io, mamma mia. E poi, siccome io in estate soffro della luce del sole, io quando uso le lenti da vista, no? Che hai la vista, metto sempre delle sovralenti sopra, che calzano, ne ho di due tipi. Uno c'è una specie di pernino centrale, il bottone, lo premi e si sollevano, no? Però sono un po' zonchi. Gli altri invece calzano intorno agli occhiali e quindi puoi avere sia il beneficio del che almeno vedi bene con le lenti da vista e in più almeno il sole non ti fa cieco. E infatti, fungono a fare così, e se non ti ripervai a colorate da loro. No, Natalie, perché lì praticamente sono più scure quelle che metto io. In pieno sole, ti parlo d'estate, mi piacciono più scure. Sì, le ho viste quelle anche fotocromatiche che cambiano, no, dalle senza in galleria si schiariscono, come mentre al sole si scuriscono, però non sono poi abbastanza scure. Già mi arrangio io, insomma. Sono organizzato, diciamo, dai. Mica. Stavi ascoltando Natalie prima, il Max Consetta abbiamo provato, dopo 2, 3, 4 anni che era fermo. Sì, che stavo ascoltando, mi ha fatto pisare mia moglie, non c'è nulla da fare, cazzo, non ho venuta da qua, sto impazzendo. Purtroppo poi il dolore rende nervosi. Infatti ho detto, come mai non vi siete ancora ammazzati lì? Eh? E poco ci manca. Minchia, attenzione che poi lì fioriscono le armi, lì è tutto un fiorire di armi. Se no finisce tipo Ucraina e Russia, mettete i sacchetti di sabbia, da un angolo all'altro vi sparate da un estremo all'altro della casa. Oioioi. Fai domanda, Marco, che stanno dando le case in subito l'Emanuele e il comune adesso. Il sindaco lo sta dando. C'è 1 milione di euro da spendere. In che lo hai preso tu, Marco? Che cosa? Che spieghi? Spiegato da Antonello è un po' fumoso. Cosa stanno dando le case? Il comune sta dando le case alle coppie giovani, capito? Che pagano l'affitto, il comune ti paga. Sta cercando appartamenti, dico subito l'Emanuele, il comune di Sassari, per dare le case alle coppie, capito? Così almeno si ripopola dal centro storico, che non c'è manco un cane. Cioè in mezzo ai negri, no, ma a parte che io non ho una compagnia fissa, quindi che coppia, cosa mi importa, la prima tizia che trovo per strada, la prima tossica che trovo per strada, facciamo finta di stare assieme e ci facciamo andare a casa, no. Ti porti il gatto, ti porti, guarda, io vivo col gatto. Lo so, l'ho letto, vogliono ripopolare la parte soprattutto bassa del centro storico, solo che vai lì, ti mettono a fianco con certi animali e la convivenza diventa difficile. E quelli sono delinquenti veri, con armi vere, come avete visto, che spacciano, ti minacciano, tutto, insomma. La vedo dura, a meno che non ci vada gente molto, molto temprata, con due palle d'acciaio sotto, però lì la convivenza è brutta, A prendere a culo i bigi. Anto, però non è così facile, quella è proprio mafia nigeriana, c'è gente che arriva in gruppo, ti può fare del male veramente, poi c'hanno armi vere, come vedi, con la sparatoria di quella volta, a parte quell'altro dell'altro giorno, quello sciabidato mi pare fosse una pistola a salve, però la volta precedente mi pare hanno sparato a piombo. Ma tutto cagato solo. Cade il rumido, rimane il fuoco, acciaio. Ma lì è tutto strano, c'hanno le vedette, hai visto, stanno sempre guardando, sanno chi entra, chi esce, chi passa, a che ora entra, a che ora non a che ora torni. Insomma, non è molto vivibile il corso, l'hanno rovinato, però io la colpa la do a questi che hanno affittato gli appartamenti, pur di avere i soldi. Vabbè, il discorso è difficile. Però pur di avere soldi hanno affittato a questi diversamente bianchi che vivono in Nigeria in quel modo lì e stanno portando quel modo di vivere nel cuore di Sassari, ecco. Carità, per carità, che gente brutta. Ti volevo dire, da che anno ce l'hai tu la patente? Io, sì, vabbè, Antonello non può essere, Antonello ancora non l'ha presa. Poi Antonello mi spieghi, dopo te lo chiedo. Allora, io ricordavo male, ricordavo nel 90, invece nel 91 ho preso la B. Poi nel 92 ho dato l'esame integrativo e ho preso la patente A. E ho dovuto riconsegnare la vecchia, me l'avevano data nuova con tutte e due le categorie scritte sopra, cioè anziché integrare sulla vecchia col timbro la categoria nuova, hanno preferito sostituirla direttamente. Quindi sembra che io ce l'abbia da 92 ufficialmente, in realtà ce l'avevo dal 91. E scuola guida l'avevo fatta in Viale San Francesco alla ABC, ABC di Viale San Francesco. Ma da quegli anni c'è? Ma c'era anche da prima la ABC. Comunque sì, ripeto, io dal 91, dal 91 avevo la patente B. Oppa, di una via. Anto, allora, io mai creato un incidente in macchina, mai, e nemmeno subito. In moto, allora, una volta un tram mi ha stretto a un incrocio, lui scendeva, io ero... praticamente mi ha stretto, mi ha fatto cadere e ha detto che io passando col tram mi scontravo col tram, e lì praticamente ha voglia di portargli i testimoni, le assicurazioni sono dei farabutti tutti quanti, capito, dei venduti, lasciamo perdere, quindi hanno ragione loro e mi hanno dato la metà della colpa, ha voglia di portare i testimoni, non è così facile, però io non ho fatto di mio alcun danno, cioè non ho fatto azioni sconsiderate. Poi una volta un vecchio esce dallo stop, cioè questo rallenta, no? Si avvicina allo stop e si ferma. Io rallento sempre un po' per non arrivare spalato lì così. Questo mi ha visto rallentare, l'ha interpretata come se lo volessi far passare, è andato avanti e mi ha toccato il piede col parafango, proprio una volta fermo sono caduto e prima lui ha dichiarato una cosa, poi ha dichiarato che non mi aveva toccato, che ero caduto per conto mio, così, per il vento, vabbè. E una volta invece in via Coppino un tizio si è distratto, però è stato onesto quello, si è distratto guardando gli specchietti, io mi ero fermato piano e non chiodato, avevo rallentato piano per far passare un pedone sulle strisce, questo tizio era distratto e mi ha beccato in pieno da dietro, però danni fisici zero, alla moto graffietti, fesserie. Però io mai creato un incidente in macchina e di mio neanche in moto, capito? Solo subite queste tre fesserie in moto, non per dolo mio però. Oh, ma ne ho evitatemi, uno che mi aveva tagliato di notte, era passato col rosso pieno, ho inchiodato, però inchiodando l'avresti beccato lo stesso, ho stressato dalla ruota e praticamente inchiodando si è girato il muso della macchina a destra, però mi per un soffio è evitato l'incidente. Ricordati, sempre per palomacchini degli altri, perché io alla guida sono stato sempre assennato. No, io sto molto attento, io, se avessi voluto fare l'incidente l'avrei già fatto, io sono ben attento. L'altra volta alla Buddi, io ho messo la freccia per girare il fornitore, questo non passa nello spartitraffico lì dove c'è giù il fornitore di giù dell'Agip, dell'Eni. Cazzo, giù mai non me ne è messa, meno male che ho guardato, meno male. E quello di dietro stesso che sta facendo un'infrazione che manco 4, oh, mi sono incazzato forte lì, mi hanno detto tutti i colori, bastardo, figlio di tutto e di più. Cioè, cavolo, io se ho la freccia, devo girare per forza, cioè, ho ragione io, tu devi rallentare, non mi puoi andare contro. Poi vai a passare lì, nelle strisce zebrate, che dal ritiro di patente. Ma sì, vuoi il capo, sì. Ehi, infatti, uffa, sto microfono. Infatti io temo gli altri, temo la guida degli altri, non la mia. Io anzi... di solito quando uscivamo con gente dice io che ci stiamo addormentando, comincia a accelerare un po', ha detto ascoltate io guido anche, a parte che sono allergico alle multe, cioè se c'è il limite ai 90 vado a 90, non voglio pagarmi le multe perché i trasportati vogliono provare l'ebbrezza della velocità, la benzina costa pure. Gli ho detto, se volete così, se non mi, mi sto fermando, scendete pure a piedi. Fermo appunto. Appunto, poi bisogna stare attenti, bisogna, soprattutto andando in questa zona di Cagliari, in Chivi, cioè anche andando a Olbia, autovelox, così, mamma mia, qua c'è un programma che me lo devo scaricare. Sì, di quello non so nulla, se... o almeno una volta, ti parlo degli Stati Uniti, negli Stati Uniti siccome usavano il radar e non il laser velox, ti parlo di anni fa, usavano un'onda radar, c'era un piccolo, una scatolina che tu montavi sul cruscotto e riconosceva la frequenza del radar e quindi ti si illuminava, suonava e sapevi che dovevi rallentare in fretta. Poi però questi equivalenti europei, anche se ci fossero, credo che siano illegali, in teoria. Che poi stanno risultando certe cose che non sono, una marea di autovelox non sono autorizzati, cioè non sono omologati, tutta roba rastrellata, cioè messa dai sindaci per fare milioni di euro, poi scopri che o non sono omologati o non sono a norma, un sacco di schifezze stanno facendo, guarda, per rastrellare soldi. In certi posti ogni 100 metri un autovelox, non parlo qua, parlo del continente, li mettono anche nascosti, pattuglie in mezzo imboscate in mezzo alle frasche con laser velox, cioè cose non proprio regolamentari, ecco. Poi volevo chiedere a Antonello, Antonè, ma tu la patente non l'hai mai presa neanche della moto per qualche motivo, cioè tu la puoi prendere, se volessi potresti prenderla o non puoi prenderla per qualche motivo diverso? No, se vogliamo la prendo, non è quello il problema, è facile anche quella il patentino della moto, non è difficile. Quindi, ma ormai c'ho 60 anni, che se ne frega di pigliare il patentino, prendo di quelle macchine che c'è in villa, va a fanculo e mi spammi insulti, ma non mi faccio la spesa, non è che devo andare a proporre, se non me ne frega proprio niente andare a proporre, se ho a Sinovi o a Ussi, a me basta avere l'auto per andare in città, fammi la spesa, boh, non devo fare nessun'altra cosa. Una volta che poi ho fatto la spesa, io rientro qui, già un secolo che c'è la tele Simona, quindi dove vado, hai capito? Quindi se fossi stato un po' magari più giovane, ti parlo di 10-15 anni fa, allora avrei trovato il piglio della patente, il patentino per la macchina, quella 50 va a far culo, e c'è riuscito con Simona, adesso devo stare a casa, a tenere a lei, capito, c'ha problemi di ambulazione, non è così facile. Sono sempre a casa per quello, se esco solo a farmi la spesa e basta, dovevo che vado. Vado me. A bermi una birra al bar qua sotto, oppure mi passo da ricco, mi bevo una birra e poi entrare di solito dentro a casa. Sì Antone, praticamente quando hai in casa una persona che non sta bene, le priorità cambiano. Non è più come una volta che si poteva andare a zonzo fino a tarda notte, da giovani, con amici, amiche. Le priorità cambiano. E vabbè, quella è la vita, dai. Va bene. Io vado a bere che sto asciuttando, come dice Gianni. Riprendi Antu. Vabbè io, ma... Cosa c'è capo? Parla di qualcosa. Io me l'ho presa perché ho le mie esigenze, e quindi ho viaggio molto, quindi ho le mie esigenze, le mie cose e mi serve. Tanto ti volevo chiedere, siccome avevo visto una foto vecchia della chat nostra, quella di WhatsApp, no? E mi avevi mandato la foto di uno scooter con un cassone dietro, che poi non avevo risposto, l'avevo vista però, ma facevi le consegne all'epoca? Sì. Ma tipo Deliveroo o in privato per altre pizzerie, altre cose? No, con la mia dipende, facevo anche bombole, un po' di tutto. Perché l'avevo vista ma mi ero dimenticato di rispondere, sai, poi io non sono assillante con le chat. io ho visto raramente contatto, se non è proprio una necessità, una cosa richiesta dalla persona. Non mi piace mandare troppi messaggi, tantomeno anche riceverne, insomma. Se no questo computer, questo smartphone sta sempre ccc, notifica, è una palla. Forse fate il portapizza in quel momento. Aspetta che la trovo la foto, era un colore rossiccio mi pare il cassone. Ecco qua, Antonio. Sì, è quello, sì, lo scooter credo sia il tuo, no? Quello. E c'era un cassone di materiale plastico nero con i bordini rossi, sì. Un po' di materiale un po' morbido sembra. Sopra c'è una specie di cinghia, eia. Stavo facendo il portapizza sicuramente. Sì, sì, un po' la forma ricorda quello. Sicuramente era termico, no? Per tenere un po' il calore. Se no, in inverno arriva la pizza congelata. No. Com'è? Oh, gli levo qualcosa alla bocca. Come arrivava super calda, perché ero molto veloce facendo le consegne. E quella mi sembra un bel, me l'avevi fatta vedere dal vivo, no? Sembra un bel demonietto. Poi tu hai detto che la tieni in ordine, un po' come motore, cambio e tutto. Io, oh, conta una cosa, che comunque quella che ho io, il Liberty, anche quando la compri nuova, è un ciodo, cioè non è una moto performante, è un motore sì che dura tanto, che non corre molto, che è lento in ripresa, diciamo è un motore longevo, serve solo così a fare le solite cose. Invece l'SH125 già è un po' più spinto, così come era anche lo Scarabeo 125, era un po' più sportivo, un po' più pepato come motore. Poi oh, se li metti qualche pezzo Polini, Malossi, non so più cosa, te la fai che diventa un mostro. Io già lo so, basta metterli, tanto di azzardo, basta metterli così, ma i rulli diversi, già cambia tutto. Anto, ma aspetta che tu di che anno sei? Che anno sei nato, più o meno? Se si può dire. 6 novembre 84. Quindi 84, quindi eri piccolo ancora nel 90. Perché era il paradiso, cioè nel 90, forse fino al 91. E l'uso dei ciclomotori 50, allora non esisteva targa. Non esisteva patente, non esisteva assicurazione, forse, non mi ricordo nemmeno se c'era l'obbligo del casco per i minori, questo non sono sicuro, ma era un paradiso, tu era come avere come si chiama, questi monopattini, non dovevi fare niente, poi hanno cominciato. Ma mettiamoli il targhino, facciamoli fare l'assicurazione obbligatoria, facciamoli mettere il casco almeno ai minori obbligatorio, insomma, e sono lievitati i prezzi dell'assicurazione in modo terrificante, capito? Poi il patentino per i minori, hanno introdotto un saccaccio di roba, prima era tutto libero, era un paradiso, era, se tu avevi un ciao, un sì, uno zip, chi su che ti piace, era un paradiso, mettevi benzina e boh. Vabbè, non vedi niente, hanno fatto bene in parte, perché c'era molta gente che non sapeva guidare, non conosceva cartelli, non conosceva nulla. E quanti incidenti succedevano con questi capimacchi? Quanti incidenti succedevano al giorno? Certo, quello e lì stava all'epoca i padri a insegnare ai figli cosa potevano fare, cioè a rispettare uno stop, non ci vuole molto a insegnare a un figlio a rispettare uno stop, un incrocio, le rotatorie non c'erano, sì, non si usavano all'epoca le rotatorie, se non in qualche luogo più distante, c'erano gli incroci, come dire, le cose base un padre le insegnava a un figlio se voleva, e che i figli poi se ne fregavano. Tu pensa che comunque io quando ho avuto il ciclone avevo anche già 18-20 anni, però ero senza mezzo, avevo preso era un super ciclone Garelli, a benzina, purtroppo solo 3 marce, perché avevano introdotto questa limitazione. Io, nonostante non ci fosse obbligo di assicurazione, io ho detto, non sia mai che mi scappa il freno, che faccio cadere un pedone, che do un colpo a una macchina, io soldi di mio per aggiustare la macchina o il pedone non ce li ho. Beh, l'assicurazione annuale per un cinquantino costava una miseria, mi pare 50.000 lire, tipo 49-50.000 lire, e tu eri protetto tutto l'anno, potevi investire chi volevi, fare il danno che volevi. Da quando hanno messo l'assicurazione obbligatoria per i cinquantini è diventata una cosa folle, capito? Poi come sono arrivati gli euro, io una volta mi ricordo che la Unipol, che era, sto parlando, forse era entrato l'euro da poco, ma aveva chiesto una follia, tipo 600-700 euro annuali per il cinquantino. Io stavo per dire, ma voi siete matti nella testa, matti nella testa, sono anche adulto, ma sa, la fascia di cilindrata ha molti incidenti, io sto parlando, ma io cosa mi devo pagare? Gli incidenti fatti dagli altri, dai druini, no, dai piccoli. E alla fine poi non avevo preso all'epoca di scooter, capito? Stiamo parlando intorno agli inizi 2000, inizi euro che era, capito? Perché? Mi pare che sia Tonino, avanti, buonasera. Buonasera, 73 Alfa Delta da Sassari, un controllo di radio, grazie. Ecco, scusa, allora, radio diciamo abbastanza forte, abbastanza nuova, un po' metà, un po' acuta come modulazione, forse somiglia un po' alla mia. T'avevo scambiato per Tonino, buonasera. Ecco, ma qua sei una bomba, sì. 925, radio 5. Avete parlato in due, ripeti ancora. Ho detto, adesso va bene la modulazione. È un po' nasale, cioè abbastanza nasale, ma capibile, è capibilissima. È la mia comunque la voce nasale, è così la mia. E allora siamo in due, dai, anche la mia non mi piace niente, quando mi sento in radio infatti. Anto, chi è? Perché non so se chi è l'amico, tipo quello zona Porto Torre Salghero Sorso, o chi è? Affermativo, sono io, sto provando il microfono a casa di Antonello, perché è arrivato la settimana scorsa, lo sto provando, adesso poi dovrò provarlo a casa, se funziona con l'apparato che vivo a casa, capito? Se no bisogna invertire qualche cavettino. Ah, ok, no, credevo che fossi da casa tua, ha detto, ah, caspita, ogni incremento di segnale, ti ricordi che se sei tu per sentirti dovevamo passare in FM, invece no, sei da Antonello, va bene, tirali i capelli, no, tirali le orecchie, almeno quelle ce le ha. Ok, grazie, lo farò senz'altro. Comunque, buon proseguimento di questione, io sono venuto qua per ritirare questa questione, ok? Quindi ripeto, un po' acuta come modulazione, ma è regolata molto forte, è regolata al massimo, quindi magari abbassando appena i toni migliorano, anche si arricchiscono un po' più di bassi, almeno credo. Vai Antu. È la sua ceramica che c'è nel microfono, capito? Non posso fare modifiche di niente qua. Comunque, l'importante è che funziona il microfono, poi di altro non mi interessa nulla. Sì, era tipo, aspetta, me l'ha detto Antonello, era come quello di marca, però senza la marca, avevo capito. Sì, l'avevo ordinato da Pisa, mi sembra che arrivi, boh, adesso non ricordo un po', più è un negoziante di Pisa che lo stava vendendo, capito. Ecco, però qua c'è una bomba, sei veramente una bomba. Comunque adesso quando arrivo a casa vedrò un pochettino come funziona, se funziona diciamo l'apparato, se esce, se no bisogna modificare qualche cavettina. Esce, tranquillo. Ok, buon proseguimento, scusate il disturbo, ci sentiamo da casa, casomai dopo. Ok, dai, ci sentiamo, avanti. K, va bene, buona serata, dopo nel caso, così vediamo come vado a casa tua. Oh, Anto, ho fatto una gaffa, ero convinto fosse Torino, come ha fatto il break rapido, invece no. Non so nemmeno se sia più entrando, nemmeno lui. Da tanto che non lo sento, da molto, molto, molto. Sì, magari non coincidono gli orari, non coincidono le giornate. Oggi la febbre ci è venuta. E su Maria Gara. Guarda, da quando è entrato Antonello stavo facendo i piatti, erano le tipo 2:30, 3. Ho sentito fischiare, ho detto vediamo chi è. Era Antonello, è lì, tutta la sera fa vedere in radio. Infatti mi l'apparecchietto è piccolino, è caldo caldo, soprattutto dietro. Kappa. Aspetta che tu che ne roba adesso. Ti devo lasciare un attimino. Magari ci sentiamo dopo che devo vedere il bambino. Ehi, ehi, fai Anto, prima di tutto la sicurezza dei piccoli che sempre toccano, rischiano di rovesciarci roba addosso, eccetera. Vediamo se c'è Natalino ancora all'ascolto, se se la sente. Ti sono, sto sempre ascoltando, solo che sono con questi dolori qui e non è che mi venga tanto bene. Ma ascolta, la terapia del dolore almeno è più efficace, cioè è roba più seria o sempre roba così? No, già è più seria, solo che quando ti vengono quelli fissi che c'è qualche grumo di sangue, allora non ce la fai a resistere. Mamma mia, quando uno dice che proprio il Signore ti mette alla prova, però pure lui. Io, già. Poi almeno che venisse qualcuno a darmi una mano, non se ne vede una gamba, nessuno, né a farmi compagnia, nulla, almeno mi sarei distratto, invece no, capito? Ehi Natalì, sa cos'è, tutti hanno problemi, chi più chi meno, Mimì sta ascoltando sicuramente, ha passato la TV. Io ho la vecchia, adesso mi sentemi, se vuoi mi porto la vecchia presso. Mi fai così, yeah. Aspetta che prendo la bottiglia dell'acqua, devo bere, sono anche disidratato. Ehi, fai, io sto sempre bevendo acqua e andando in bagno, una cosa allucinante. E beh, d'altronde bisogna idratarsi in estate. Bere acqua soprattutto, e no alcolici. Vero Antonello, vabbè, lasciamolo in pace un po'. Quanto costerà uno di quegli scooter 50, Marco lì? Ma benzina? Normale scooter? Non per invalidi? No, a benzina. Guarda, boh, tipo il Piaggio, tu il più vicino che hai è cui puoi chiedere Viale San Francesco. Quello, proprio il negozio Piaggio, tipo un Liberty 50, poi c'è sia il motore sia due tempi, sia quattro tempi. Qualcuno dice che il quattro tempi dura di più, ma è un ciodu, qualcuno dice il due tempi è un po' più performante ma dura meno perché gira alto. Io penso comunque il 50 sui 2.400 euro nuovo. 2004-2005, per il 125 era arrivato a costare, almeno finché guardavo i prezzi, mi pare 2006-2007, forse anche 2008, e sai perché? Perché adesso li fanno tutti a iniezione elettronica, non c'è più il carburatore che a freddo magari può dare qualche scompenso, adesso sono tutti a iniezione, c'hanno un bel di elettronica sopra, tutti pieni di prese USB, di minchiate, forse hanno anche la SD per evitare di slittare con la gomma. Quello non lo so, il mio è abbastanza retro, il mio è del 2011, è abbastanza vecchio come concezione, però siamo lì Natali, penso sui 2500 euro, io parlo sempre chiave in mano. Eccomi. Però Natali, ricorda, lo scoglio più grande è l'assicurazione, perché ti spendono, per il 50 ti spendono. Allora tanto male 125, non che non mi abbiano svenato l'ultima volta. Cioè me l'hanno aumentato ulteriori 30 euro, non ho mai incidenti, che vi devo dire, e una dice ogni anno ci sono gli aumenti, ma allora dov'è il bonus malus? Questo è sempre malus malus, è come che tu abbia piccoli incidentini, ogni anno 30 euro in più, 50 euro in più, e non conviene. Riprendi Antonio, Natalino chiedeva Quanto può costare uno scooterino 50, nuovo? Così, 2000 euro costerà, insomma 2000 euro nuovo. Ma se lo trovi uno usato col motore buono, che è a posto di tutto, me ne ero fregato, l'avrei comprato usato. E vai a ciapparlo, però bisogna che la ciappi, buono, e che conosci, capirà, compreso. Sì, sì, ma già, se vuoi, cioè, mi informo e vedo un po'. Ce ne sono tanti che lo vendono, che sono persone serie, con motore a posto e tutto. Ma non ti interessa se due tempi, no? Te la putti nuda? No, due tempi no, quattro tempi è meglio, Io c'avevo quello scarabeo, ma tanto camminava, ed era 50, non gli ho fatto mai niente io. Eia. Ah, Natalì, naturalmente io perché ti ho prospettato il Liberty? Perché ha le ruote alte. E guarda che io ho visto gente con lo Jeep, sì, è più piccolo, costa meno lo Jeep, poi con quelle ruotine ho visto prendere sul pavé, mi, proprio dalle parti di Corso Trinità, certe strampate, mi. No, no, meglio le ruote alte. Tipo Liberty, tipo SH50, tipo lo Scarabeo che hai detto prima. Io lo consiglio, soprattutto anche per le persone più grandi. E infatti io quello con le ruote piccole non è che mi piace assai. Lo Scarabeo c'aveva le ruote grandi. Ma tutte, poi di due tempi, guarda che io sono andato e tornato da Santa Maria Coghinas con la mia, da Badesi. Sono andato a Sintino e coso, non ho mai avuto un problema, no, grazie a Dio funziona sempre la mia moto, è in due tempi e la sto sempre usando per andare a lavoro, infatti la testa giù via baghissimo, però mi serviva andare a pigliarmi la macchina a fare commissioni, mi serviva, perché non è che posso camminare molto. No, trovo uno tenuto bene, te lo dico. Fino a poco fa del Paradiso, fino al 90-91, non avevi nulla, avevi il ciclotore e l'usavi, punto. Adesso vogliono fare la stessa cosa con questi trespoli elettrici, come si chiama, i monopattini. E comincia il targhino, che poi non ho capito, questo targhino forse è così giusto per identificare il mezzo, non devi fare già, però l'assicurazione, l'obbligo del casco, cioè alla fine che se proprio devi pagare l'assicurazione e metterti il casco, mi sa che non ne vendono più di questi cosiddetti, tanto vale pigliarti un ciclomotore, perché hanno questo limite di 20-25 orari questi cosi elettrici. Poi lo stesso con quelle ruotine, mamma mia, basta che prendi un solco sbagliato, certe strampate ho visto, e ti fai male, come i ciclisti, certe strampate sembravano stupide e poi vedevi il ciclista morto con la testa aperta in due. Io mi si ammazzerei sui monopattini elettrici. Ma cosa, tu devi saperlo usare, non devi fare macchine con cosa, tu devi saperlo usare, io l'ho provato e devo dire che non è male. Tutte dicerie, basta andare tranquillo, rispettare le cose che deve rispettare ed è uguale come tutti gli altri veicoli. E soprattutto il primo impatto è un po' quello che ti lascia un po' interdetto. Adesso ti spiego, io ho avuto sempre moto, vabbè, il ciclone c'aveva il motore praticamente davanti alle gambe, no, sotto, quindi pesava sul manubrio. Ho avuto la Z250 che c'aveva il motore bello davanti, sotto il serbatoio, l'Honda 400 Ford che c'avevano motori veri, belli pesanti. Io la prima volta che ho preso lo scooter che c'è adesso, che praticamente c'ha tutto dietro, marmitta dietro, motore dietro, cambio dietro, tutto dietro, davanti, io sentivo questo scudo leggero, e detto questa è una bara, praticamente non c'è peso all'avantreno, perché davanti c'è solo il canotto dello sterzo, capito, lo scudo è tutto di plastica, io sentivo che dovevi tenere il manubrio più saldo, perché sennò ti oscillava un bel. E quello però è stato il primo impatto, passando da vere moto col motore bello sotto il serbatoio con un bel peso anche piantato in avanti, a avere una moto che ha peso solo dietro, tipo la Vespa, e davanti è biondo. Non ti preziso, bisogna saperli guidare, boh. Ma che c'è troppo una Vespa, io me la prendo, a me mi piace, me. È che la Vespa bisogna saperla guidare. Ma vera Vespa col cambio manuale, non automatico? Col cambio manuale, lo stesso. Perché me l'avevano proposta tanti anni fa, però a me proprio il cambio manuale non mi piaceva niente, cioè che ci avevi la frizione e il cambio, mi pare fosse a sinistra, sì. Cioè dovevo, oltre che tirare la frizione, flettere il polso. Siccome avevo avuto una distorsione tempo prima, che comunque negli anni ha dato un po' di fastidio, mi trovo molto male col cambio della Vespa. E poi infatti non ne ho preso. Avevo preso la Honda 400, quella era già una vera moto. Honda 400 Four era del 77, mi pare. E quindi l'avevo presa usata, ma quella era una vera moto, capito? Scappa, era più provata chi dà comunque, chi dà quattro tempi, a me non piace. Cazzo, non anda nuda, non anda. La mia è molto meglio, la mia se schiacci fa. Eia, ma rispetto a quale? Rispetto a... Cata che tu si pone in fuga a tutto. Rispetto alla... ai quattro tempi, io ne ho provato una ma era un cesso. Sai cosa dicono? Ai quattro tempi gira più in basso, dura di più, però lì secondo me per avere un quattro tempi più performante devi avere uno scooter 125, magari anche di più, magari anche 200-250. Per esempio, hai visto il Beverly mi pare arriva fino a 350, ma truba di più, certo è più pesante. Comunque Nathalie, mi raccomando Nathalie, questo è imperativo, se proprio ti devi prendere uno scooter, prenditelo col pianale piatto, in modo che se devi portare un cartone d'acqua ci sta, se devi portare un bustone pieno di spese, segui i bustoni grandi che ti dà la Lidl, te lo metti lì, bello piantato, c'hai il gancio per bloccare le maniglie del bustone e ci sta un po' di roba. Ma se prendi quelli che hanno il tunnel centrale, non si può punire manco un cartone d'acqua e una rottura di scatole. Io già lo so, se mi facevo tutta la spesa io con lo scarabeo. Sì, per esempio, aspetta che questo mi sta stancando il tastino, sto bracchino, mamma mia, c'eri quei tastini, tac tac, no, non hai la mollettina col PTT vero, però la lunga stanca perché sto usando la sinistra. Ti stavo dicendo, io quando voglio fare un po' più di spesa, allora nel pianale anteriore, proprio lo riempio, metto questo bustone strapieno di roba che ti arriva quasi al manubrio, però naturalmente al manubrio non arriva, se no non potresti girarlo, no? Poi il bauletto lo riempio di roba finché ce ne sta, il bauletto, il sottosella è inutile perché piano ci sono i ferri, ci sono i documenti, c'è un ciombo di roba, è comunque piccolo, quindi riempio il bauletto e poi mi porto anche uno zainettino che se ho ancora più roba mi riempio questo zainetto di roba, piccoletto, però già ce ne sta di roba, e quindi tra pianale strapieno, bauletto e zainetto mi faccio una discreta spesa, devo dire. E io facevo così lo stesso, dove mettevo il casco nel bauletto, ti punivo la buccia della spesa. La mia è così lo stesso, la mia c'ha il pianale basso. Conta che il mio bauletto è anche ridicolo, c'è un baulettino piccolo, è un baulettino che va bene giusto sui 50, sui 125, certo non mettevo un barrasone su una moto piccola, capito? Però permette di fare una discreta spesa, sì. Naturalmente poi quando c'è il pianale tutto occupato e anche in larghezza, io poggio i talloni delle scarpe per sollevarlo per guidare, no, poggio i talloni delle scarpe. Però l'importante è che sia bilanciato. Invece una volta mi è successa una, mi è caduta una busta della spesa che era mal legata e attaccata al sedile posteriore, tra il sedile posteriore e il bauletto. E beh, doveva cadermi, mi cade la busta e la macchina di dietro ha dovuto inchiodare e ha suonato davanti alla stradale. Era tutto pieno di polizia, perché a Piazza dei Segni c'era non so quale partita o concerto rock, però per fortuna quelli stavano prestando servizio d'ordine e non mi hanno neanche considerato, se no lì carico che in teoria potevo fare un incidente a una macchina e lì era sanzionabile, per dire. Ma lì purtroppo è stato un errore mio, perché avevo comprato così tanta roba che, nonostante il bustone, nonostante il bauletto, nonostante lo zainetto, non mi bastava il posto, e ho assicurato una busta con della roba male sul sellino posteriore, e me ne è caduta in mezzo strada. Per fortuna non è successo niente. Infatti. Che poi, scusa, non era la stradale, era polizia generica, però stavano facendo servizio d'ordine, perché c'era, mi pare, o una grossa partita o un concerto, comunque con cantanti noti, tipo Placebo, una cosa del genere. E Antonello Pomponio è andato via, forse sta parlando in verticale, sono andati a blindare con l'amico del microfono, da. Mi può darsi. Comunque, Natali, adesso con Antonio ne abbiamo parlato anche l'altra volta, no? Io, questo perché l'abbiamo preso usato? Per risparmiare. E beh, cosa abbiamo risparmiato prendendo l'usato? Un benemato cacchio, perché la trasmissione ne soffriva già di più, le gomme erano già un po' usurate. Alla fine, se tu vuoi rimettere a posto tutti questi freni, erano già un po' usurati, se tu la marmitta non era nuovissima, adesso è più rumorosa di prima, un po' di più, non molto, insomma, però se tu vuoi risanare tutte queste magagne, la trasmissione, le gomme, i freni anteriori posteriori, alla fine ti vado in pari come che l'avessi comprata nuova dall'inizio. Infatti ho detto, ma gira gira, i soldi all'epoca c'erano, ho detto avremmo fatto meglio a andare al concessionario e comprarla nuova di zecca, e sarebbe tuttora in migliori condizioni comunque di come adesso, perché sarebbe stato tutto nuovo di fabbrica. E quindi vedi, vai a risparmiare e non hai risparmiato una mazza, quindi altro che comprare roba usata. Vai anche tu. Vabbè, dipende cosa prendi sempre, dipende. Dipende sempre cosa prendi. Ascolta, io ti devo lasciare un attimino, devo andare a cambiare il pannolino al bambino. Ci sentiamo dopo. Io pure, io vado a cambiarmi il mio, perché mi sono, tra tutta quest'acqua devo andare in bagno. Natali, facciamo così, io sono anche un po' stanco, tutta la sera in radio alla fine, mi pare dalle 2:30 a 3. Dai, ritieniti salutato, ci sentiremo sempre in migliori occasioni che non arrivano mai. E quindi c'è Antonio, Natalino, Antonello e l'altro amico se l'ascolto, tutti gli ascoltoni, Luca eccetera. Dai, ci sentiamo un'altra volta, per oggi abbiamo già dato, dai. Vabbè, ok, ciao a tutti. Piano, uno per volta. Magari in 10.000 l'ascolto, nessuno ci dice un crepa, un vaffa a Napoli, nulla. Sempre così siamo. Ciao Natali, ciao, ci sentiamo. Ciao.